Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, vorrei esprimere il mio parere su questa diatriba inerente alla poca informazione. Io credo che l'informazione sia mutata. Non è poca, ma al contrario, troppa. Troppe voci discordanti che gettano la gente nel caos. Non voglio con questo dire che ci siano delle bocche da chiudere, ma penso che molti sedicenti giornalisti dovrebbero farsi un esame di coscienza. Un esempio della mutazione dell'informazione potrebbe essere questa moda di salire sui tetti delle aziende. Gli operai sono obbligati a farlo perché solo così i mezzi di informazione si accorgono di loro e mandano in onda la loro protesta. Lo sanno che le manifestazioni di piazza verranno oscurate o dimenticate nel limbo dei numeri. Un esempio di chi vuole mutare l'informazione lo troviamo nei titoli di queste settimane. Feltri che lancia strali e tutti a domandarsi se Silvio Berlusconi debba licenziarlo oppure no. Ma Silvio Berlusconi non è un dirigente del giornale. Anche se i primi tre cognomi nel suo organico sono Berlusconi, Silvio non compare. Allora lui cosa c'entra? In soldini, la situazione sull'informazione in Italia è un guazzabuglio di detto e non detto, di smentite, di veline e intercettazioni a metà, dove la gente si perde e rimane disinformata. Moreno. Il popolo cristiano non ha le fette di salame sugli occhi. Siamo stufi di bizantinismi. Nella Chiesa ci vuole un po' di luteranesimo. Ma in questo santo paese, cosa deve fare uno che si chiami o no Berlusconi, dopo 20 anni di attacchi continui alla sua persona, sulle sue aziende e su tutto ciò che gli ruota intorno? Ma chi l'ha detto che tutti i suoi accusatori siano dei santi? Basta! Occupiamoci dello sviluppo di questo paese e cerchiamo piuttosto di dare una limitazione temporale di 8 anni a chi fa politica. Lettera firmata. Il caso Boffo non è una scoperta di Feltri, in quanto già nel 2006 la rivista Quaderni Radicali si era occupata della questione con un articolo di Maurizio Di Giacomo. Alla luce di questi fatti, mi sembra evidente che Feltri abbia rispolverato la questione dopo 3 anni per puri scopi ritorsivi, per colpire cioè un direttore che aveva criticato il proprietario del giornale, Simone da Prato. Ci risiamo con il problema politico del Sud che reclama la fetta di investimenti che da Roma dovrebbe arrivare per mantenere i patti che sicuramente hanno fatto nel PDL. Dal canto loro è giustissimo che ora si facciano sentire, dato che si ricomincia a parlare di manovra. Ed è anche giusto che ogni volta ci sia chi, nel nostro paese, comportandosi da virtuoso in fatto di politiche amministrative, recrimini e critichi il comportamento delle amministrazioni meridionali, dopo anni di investimenti che non hanno prodotto nessun cambiamento sociale, economico e finanziario. Il povero Sud si porta appresso i segni di governi secolari, creati sull'isolamento non solo sociale e politico, ma anche sfortuna loro geografico, dove i contatti con altre popolazioni erano dall'altra parte del mare, e immaginiamo le difficoltà che c'erano secoli fa. Ci sono molte zone del Sud che comunque hanno iniziato un processo lento di legalità, di unione sociale, di valorizzazione dello Stato come opportunità di crescita sociale, e sarà lungo, ma è importante, perché inquina le zone dove la chiusura sociale è data dal controllo delle organizzazioni criminali. Fin dal tempo dei Borboni, in alcune zone come il Casertano e gran parte della Calabria del Sud, lo Stato è il brigante e la popolazione locale riconosce come autorità il boss di turno che imperversa nel territorio. Questa situazione sembra ottocentesca, ma è del giorno d'oggi e lo Stato fa solo un'azione di occupazione del territorio senza svolgere un'azione sociale. Lo Stato non combatte un fenomeno criminale, ma un fenomeno che, seppur violento e silente, ha il consenso sociale e quindi ne uscirà sempre sconfitto. Andrea. Quando mesi fa abbiamo capito che una crisi profonda rivelava al mondo le acrobazie di una finanza spudorata e venivano al pettine i nodi di anni di abbuffate truffaldine, non ci è voluto molto perché si parlasse di come tutte le famiglie facessero fatica ad arrivare a fine mese e dovessero tirare la cinghia, di come il lavoro di chiunque fosse a rischio, di come nessuno riuscisse più a pagare le rate del mutuo e così via. Molte famiglie hanno risentito e risentiranno di questa crisi, è vero, purtroppo, ma molte altre non se ne sono neppure accorte e sicuramente sono la maggioranza. In questi giorni, in occasione della regolarizzazione delle colf e delle badanti, ascolto esperti che affermano che oramai tutte le famiglie non possono fare a meno di una colf o di una badante per permettere alle donne di poter lavorare o per assistere un anziano in difficoltà o un bambino piccolo. Ma sarà vero? Ma quante sono le donne che si alzano al mattino e pur lavorando sono mamme, colf della propria famiglia, impiegate e pure badanti dei genitori, dei suoceri e pure del marito? Se le famiglie sono così in difficoltà, come una certa stampa vuol far credere, com'è che si possono permettere di diventare a loro volta datori di lavoro, assumendo colf e badanti? Questo dimostra come il catastrofismo predicato per mesi fosse esagerato, come il lamento quotidiano di un'Italia alla rovina fosse volutamente allargato a tutta la popolazione, mentre la realtà è che tante famiglie non solo arrivano a fine mese, ma hanno anche le risorse per permettersi un aiuto e pagare uno stipendio a un dipendente. Giulia. Si grida con frequenza sempre più pressante al fatto che l'evasione fiscale, il tanto deprecato nero, non sia un fenomeno fisiologico, ma una piaga sociale, anzi la piaga sociale per antonomasia, il male assoluto che affligge il paese e che occorre correggere a suon di stangate e simili amenità. Invece, secondo l'Istat, è un fenomeno in calo tendenziale. Le ultime ricerche parlano del 17% del PIL, 265 miliardi in cifre assolute, percentuale in costante diminuzione. Nel 2001 era il 21%, a prescindere dalla coloritura politica dei governi. Ad esempio, si sono sempre accusati i governi di destra perché favorirebbero l'evasione fiscale, ma questo non è mai stato provato statisticamente. Dal punto di vista legislativo, per smentire questo pregiudizio, basterebbe solo pensare alle recenti durissime leggi sul redditometro, sui paradisi fiscali e sui controlli a tappeto. Tornando al sommerso, per avere un parametro di riferimento, quello italiano è solo un po' più alto di quello della Francia, dove rappresenta il 13% del PIL, la quale Francia, tuttavia, ha uno stato addirittura più invasivo del nostro e una strutturazione dell'economia molto diversa. Lì caratterizzata da grande impresa e campioni nazionali, qui da noi dal popolo delle partite IVA e dalle piccole imprese familiari, nelle quali lavora la maggioranza dei dipendenti privati. Aggiungo che nella mitica Spagna zapateriana il sommerso ammonta a ben un quarto del PIL circa. Non so se questi dati possano servire a smontare almeno un po' le mitologie sull'evasione fiscale, però mi pare utile riportarli. Alessandro. Vi scrivo questa mail per sottolineare il senso di disagio che ho provato nel seguire una trasmissione di Radio Rai 3 che riferiva dei cosiddetti costi per la diffusione del dialetto in Friuli. Innanzitutto va precisato, il friulano è sempre stato considerato una lingua dagli studiosi, anche prima che una legge lo tutelasse a livello formale. Ritengo che non sia corretto parlare di provincialismo o di eccesso di localismo, facendo riferimento alla gente del Friuli Venezia Giulia. Gente che nella storia è stata suo malgrado costretta a vivere in una zona contesa, invasa in più occasioni, che nel momento della necessità ha dovuto emigrare sia in altre zone d'Italia che oltreoceano. E che negli ultimi anni ha accolto migliaia di immigrati. Noi siamo un po' diversi dal resto d'Italia, ma siamo orgogliosi di essere italiani e sappiamo anche che moltissimi italiani sono morti per difendere i nostri confini. La nostra è una regione con tante specificità. La città di Trieste con il suo animo asburgico, Gorizia con il suo muro che la divideva in due parti, che oggi è tutt'uno con la slovena Nova Gorica, Pordenone con le sue influenze venete e Udine, la capitale del Friuli, la città che da sempre, e per me fin dalla mia infanzia, è stata simbolo dell'appartenenza delle genti friulane. Ora, può anche essere che ci siano stati e che ci saranno ancora degli sprechi nelle spese fatte dalla regione Friuli Venezia Giulia per la promozione della lingua friulana, ma credo che se sono giustificati, e lo sono, gli sforzi per il mantenimento delle comunità linguistiche numericamente più piccole come quella slovena e tedesca, non capisco perché ci si scandalizzi di fronte alla promozione culturale presso tutti gli abitanti, di lingua friulana e non, di un idioma parlato abitualmente ogni giorno da circa 600.000 cittadini italiani, il doppio delle persone che parlano il sud tirolese, tanto per rendere l'idea. E permettetemi di dire oltretutto che si tratta di buoni cittadini italiani, considerando che siamo fra i primi donatori di organi e di sangue d'Europa, i primi in assoluto in Italia, e abbiamo il più alto numero di volontari nella protezione civile in proporzione al numero degli abitanti. Gente brusca, se volete, ma generosa nei fatti. Se potete, sfogliate un elenco telefonico di Udine, Gorizia, Pordenone o Trieste. Vedrete con i vostri occhi quanto questa sia una terra di mescolanze e quindi di tolleranza. Non parlate della promozione delle nostre lingue minoritarie come un fatto di provincialismo, magari attribuendogli un sentore leghista. Non è così. Ha molto a che fare con l'affetto verso la nostra terra. Questo sì. Enrica. Ma la vogliamo smettere con questa psicosi dell'influenza a Napoli? Non ho sentito una persona, dico nemmeno una, preoccupata per questa storia. E dire che ho partecipato anche alla cerimonia di apertura di Piedigrotta a Napoli, con migliaia di persone in piazza. A sentire la stampa, sembra che a Napoli ci sia il colera. Luigi, Napoli. Direttore, voi giornalisti avete un ordine che dovrebbe essere il garante della vostra professionalità. Dov'era l'ordine dei giornalisti nella vicenda di Boffo & Company? A cosa serve un ordine garante se non garantisce un bel niente? Diciamoci la verità. Siete come gli avvocati e i giudici. Litigate fino allo sfinimento e non vi condannate mai tra di voi. Lo sappiamo tutti che c'è un sacco di gente che si fregia del titolo di giornalista, ma che non scrive una parola su una pubblicazione periodica, mentre c'è un sacco di gente che scrive, anche come ghostwriter, sui periodici ed è sottopagato e non è nemmeno membro dell'ordine. E allora perché non fate un atto di onestà e realismo e, voi per primi, chiedete l'abolizione dei privilegi dell'ordine e delle limitazioni di legge per poter diventare direttore di testata? L'ordine può restare, anzi, sarebbe meglio se ce ne fosse più di uno in concorrenza, ma converrà che la pagliacciata dell'esame è un anacronismo del secolo scorso. Quanto sopra, senza che nulla cambi nella mia stima verso i membri della redazione di Radio 24, la cui professionalità, a mio vedere, non dipende certo dall'aver superato un esame qualche anno fa. Luigi. Caro Luigi, sono perfettamente d'accordo con lei e ho espresso questa opinione in tempi non sospetti, quando si fece addirittura un referendum. Sono d'accordo sull'abolizione pura e semplice dell'ordine dei giornalisti. È più che sufficiente un sindacato che difenda come può e come deve il posto di lavoro e i diritti di autonomia e libertà. Per il resto, l'ordine come c'è in Italia non esiste in nessun altro paese democratico, anche perché è un paradosso, un ordine che regolamenta una professione esercitata soprattutto da lavoratori dipendenti. Comunque, non è vero che i giornalisti non si condannano mai tra di loro. Ci sono state alcune, poche, radiazioni dall'ordine, ma perché i giornalisti prendevano soldi per fare pubblicità oppure erano accusati di collaborare con i servizi segreti. Salvo poi vedere questi stessi giornalisti, come peraltro mi sembra giusto, continuare ad esprimere le proprie idee. Ma l'ordine non è mai intervenuto quando sono state date informazioni false, distorte, interessate, non è mai intervenuto sulla credibilità dell'informazione, sulla correttezza dei comportamenti. Ma è meglio così. Il pensiero deve essere libero e nei casi di abusi basta e avanza la magistratura. Scriveva Luigi Einaudi, l'albo obbligatorio è immorale perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non può avere, alla libera espressione del pensiero. Ma in Italia, tornando all'ordine dei giornalisti, non si abolisce nulla, forse perché spesso viene da pensare che sia stato abolito il buonsenso. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.